בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Passerà questo signor inverno, Maurizio, oppure no? Buonasera Gil, sì, sicuramente passerà, però, ma qui abbiamo caldo perché abbiamo la musica, passerà, come tutto, passerà. Passerà ancora una volta. Passerà. Ciao Maurizio. Buonasera Gil. Buonasera a tutti voi da Blu Radio Veneto, questo mercoledì 27 marzo 2013, sono le 21.02 e andiamo a iniziare anche questa sera con la nostra diretta telefonica. Maurizio, questa sera sì, abbiamo un altro bell'ospite. Sì, è un altro bell'ospite. Abbiamo Ugo Mazzei, che è un ospite importante. Ha fatto, quando uno fa un disco doppio, è sempre una persona importante, secondo me. Cosa dici, Ugo? Sì, penso un po' se fosse stato triplo. Ancora meglio. Ciao Ugo, benvenuto. Ciao Gino. Dovresti ciao. Abbassare un pochino, hai forse in streaming un po' alto. Io? Sì. O forse... No, io sono col telefono soltanto. Allora, Ugo, innanzitutto, come va a Roma? Abbastanza bene. Non, io però in questo momento sono in Sicilia. Ah, ok. Ah, bellissimo. E, com'è lì? Il tempo è stato abbastanza incerto, non è stato il tempo, il classico tempo del sud. Però credo stia migliorando, comunque lo vedo un po' meglio in questi giorni. Bene. Introduciamo allora un attimino il nostro Ugo Maurizio. Sì, caro Ugo, io ho letto parecchie cose su di te, ho letto una cosa importante, significativa. Sì. Questo doppio album è un doppio album perché ha un disco di prova, nel senso più positivo del termine, degli rifacimenti, delle prove che tu hai fatto, è il disco ufficiale. È interessante che tu abbia avuto l'idea di praticamente di far incidere, di dare alle stampe, come si dice, le prove, ma sono prove interessanti, sono prove della costruzione dei pezzi da questo nuovo album, Addio ai Shangri-Las. Sì, beh, io ti confido una cosa. Dimmi. È stata così. È nato prima il disco arrangiato e poi... E dopo le prove. Dopo è nato il provino, cioè il contrario di quello che generalmente... Di solito si fa prima il provino e poi... Come mai questa idea? Secondo me è molto interessante, coraggiosa, possiamo dire. Sì, ma allora io devi sapere che ho un discografico, che ho un produttore, che poi insomma ci siamo co-produzione io e lui, che è uno di vecchio stampo, è uno nel senso che ha fatto un po' la storia delle etichette indipendenti, perché l'Interbeat è stata una delle etichette indipendenti più antiche, a 30 anni, e lui è stato, l'idea sua è stata quella di realizzare un disco di provini. L'aveva già pensato con un altro cantautore negli anni passati, ma non era riuscito, l'esperimento non era ben riuscito. Questo invece è andato a buon termine e mi ha chiesto di realizzare, una volta che io ho consegnato il disco pronto, lui mi ha detto: prova a fare gli stessi brani col pianoforte e la voce soltanto. Ed è andata così, è andata molto bene. Decisamente sì, ma prima di cominciare di dare praticamente il là tutto quanto, risaliamo un po' la tua carriera iniziale. Tu sei un arrangiatore prima di essere un cantautore, un arrangiatore, e si sente, io e Gil abbiamo sentito accuratamente, e si sente che tu sei bravo ad arrangiare, a costruire il pezzo. Scusami, no, non ti sentivo. Mi senti adesso? Si sente che sei arrangiatore, che dai una cura particolare nell'insieme degli strumenti, dei suoni. Da dove nasce il cantautore Ugo Mazzei? Allora, nasco artisticamente dagli studi di registrazione, degli anni 90, degli inizi anni 90, un po' in tutta Italia, ho fatto delle esperienze abbastanza forti negli studi, ore e ore di studio, però poi l'arrangiamento, l'idea dell'arrangiamento nasce ricco, pieno di suoni, pieno di elettronica, e poi a mano col tempo, andando crescendo, maturando, questi suoni iniziano a sparire. Inizia prima a sparire il suono elettronico, poi iniziano a sparire gli archi, se non quelli che servono solo per cesellare alcune cose. Poi inizia piano piano a sparire anche l'idea dell'eccessiva sonorità, fin quando si rimane soltanto con una chitarra, un basso, una batteria e giusto delle chitarre acustiche, un pianoforte che sia. Quindi l'idea dell'arrangiamento alla fine è sempre molto minimalista, nel senso che meno strumenti ci sono, più l'effetto è diretto. Questo l'ho imparato nel tempo, ovviamente sbagliando per anni e anni. Molte volte, per esempio, si faceva, quando ancora non hai l'esperienza giusta, fai entrare tutti gli strumenti subito, e non è così. Adesso col tempo prima ne entra uno, poi entra l'altro, fin quando entrano tutti alla fine. Quindi sono tante sfumature che poi fanno un brano. Poi l'idea è nata comunque, questo è un disco, intanto devo dirlo, è un disco che nasce su commissione, perché è un disco che nasce per Lega Ambiente Italia, che mi è stato commissionato direttamente da Lega Ambiente Italia. Diciamo che l'idea è nata insieme tra me e Lega Ambiente. Ecco, e poi entriamo nel particolare, Ugo. Io direi intanto di fare ascoltare la prima traccia di questo tuo lavoro, proprio per dare già un'idea della tua musica, ovviamente della tua voce, ma già anche un brano legato a questo tema di Lega Ambiente, che si chiama Fatemi Respirare. Due parole, poi facciamo partire la canzone su questo brano. Sì, Fatemi Respirare è il brano di rottura, quello di apertura, che doveva essere un brano di forza. Infatti c'è un arrangiamento piuttosto fitto, piuttosto forte, anche il tempo e il ritmo, e poi a mano si va un po' più sul rock country, che è la mia passione. Ecco, allora ascoltiamoci questa canzone, Fatemi Respirare, Ugo Mazzei. Okay. Fatemi respirare, ai poli soffia un vento tropicale, mentre il cielo sta cambiando colore, i nostri occhi piangono sudore, e lascia stare tutto quanto il resto, lo so che questo non è affatto giusto, e pensa al tuo futuro, a tutto il tuo futuro, perché gli uccelli possano migrare, volando nella stessa direzione, perché una stella possa illuminare la rotta di una barca persa nel mare. Occorre che tutta la brava gente, che fino adesso non ha fatto niente, cominci a lavorare, cominci a lavorare. A questo punto sai, non c'è più tempo, non c'è più spazio in tutto il firmamento. Quando la vita ci presenta il conto, ci tufferemo dentro un lago amaranto. Facciamo in modo che si torni a vedere, in un futuro tutto da rifare, la luna in mezzo al mare, la luna in mezzo al mare. E lascia che mi tagli le vene, per innaffiare un prato di parole, ma fa che ci governino bene, che ci schiariscano la luce del sole, in un abbraccio d'uranio e di amianto, come una scheggia impazzita sul mondo, su tutte le persone, milioni di persone. Basta una carezza al vento, o un abbraccio a tutto il mappamondo, che se restasse come solo l'impianto, quello di non avere fatto in tempo, in questa corsa alla democrazia, verso una liberata prigionia, un armistizio lento, che porta solo al pianto. Così sarà, lasciatemelo dire, non sono guai su cui soprassedere, le tonnellate di greggio nel mare, l'incendio di una base nucleare, stancatevi di raccontare balle, paghiamo tutto sulla nostra pelle, abbiamo voce per urlare e voglia di cambiare e gente da istruire, abbiamo occhi per guardare e bocca per parlare e teste per capire. Fatemi respirare. Blu Radio Veneto è come non l'hai mai sentito. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Eccoci, vi ricordo allora che siete sintonizzati su Blu Radio Veneto 88.700 MHz e 94.600. Se volete ascoltarci in streaming potete andare su bluradioveneto.it e cliccare su quelle cuffiette rosse e potete ascoltarci da tutto il mondo. Se volete magari mandarci qualche messaggio in Facebook, vi collegate appunto in Facebook e cercate Blu Radio Veneto Rockway. E lì ci sono, c'è la scrittina apposta, lì ci scrivete se volete anche magari interagire con il nostro ospite. Ugo, diciamo che questo in pratica è il tuo terzo CD, vogliamo dire anche cosa hai fatto prima di questo tuo ultimo lavoro? Sì, ho fatto l'arrangiatore, il produttore, l'autore per altri interpreti. Quindi sono stato sempre nell'ambito musicale comunque e non ho mai provato a allontanarmi dall'ambiente musicale, nel senso che ho fatto sempre il cantautore, anche quando non lo facevo ufficialmente, però ufficiosamente l'ho sempre fatto. Quindi hai debuttato in pratica come cantautore nel 2009 con Pubblico e Privato? Discograficamente parliamo, sì, certo. Sì, discograficamente nel 2009 con Pubblico e Privato, che erano tutto un insieme di canzoni registrate nei vari studi dove ho lavorato. Al tempo perso facevo le cose mie. Ecco, poi è un insieme di brani, infatti sono 14 brani in quel disco. Poi hai proseguito con Mezzogiorno giù di lì. Esatto. Che ci sono due belle canzoni che vi consiglio, non possiamo fare ascoltare tutto questa sera, però magari se volete andare anche in internet, YouTube, c'è ad esempio Roma ti somiglia, che sì, secondo me è bellissima, e poi c'è anche Feste Gitane, un altro bel brano. Sì, sono due brani infatti di natura totalmente diversa quantomeno rispetto a questo disco nuovo, che è un po' più West Coast. Ah, ripeti che è interessante quello che hai detto. No, ho detto è un po' West Coast. Ecco, appunto, è quello, per quello è interessante. Decisamente per quello, West Coastiano praticamente. È West Coastiano. No, fa bene alla salute, cosa dici, Ugo? Assolutamente. Ma penso di sì. A proposito di ecologia, West Coast ha sempre avuto come principale caratteristica l'essere ecologico, secondo esatto, me. Esatto, che è la caratteristica del country. Esattamente. E tu praticamente hai detto che questo nuovo lavoro, sì, è il disco più importante, è il vero disco di Ugo Mazzei, o sbaglio? Sì, in un certo senso sì. Io sono molto legato anche al secondo, perché rispecchia forse meglio la mia natura cantautorale. Mezzogiorno giù di lì è un po' più studiato sotto tanti punti di vista. Questo era un disco su commissione, quindi sono nati un po' di problemi all'inizio nella scrittura di queste canzoni, però poi mi sono appassionato, tant'è che doveva essere un EP con 6 brani e è diventato un CD con 10 brani. Quindi... E ho scelto quella strada che a me è molto cara, che è quella della West Coast americana, delle strade assolate del Texas o di altri stati. Comunque, se la mia idea è quella, comunque molto vicina a un Leonard Cohen e a tanti altri musicisti. Ho preso in questo caso un ebreo canadese, però insomma siamo lì sullo stile, siamo lì. Io amo molto gli Eagles, per esempio. Anche qualche altro ama gli Eagles. Stasera non è in trasmissione, è un nostro collega, si chiama Agostino. Amiamo tutti gli Eagles, caro Ugo. Io amo gli Eagles prima maniera, quando c'era Desperado, quando c'era la produzione di Jackson Brown, quindi il primo disco. Esatto. Anche se tutti lo amano, però Hotel California è stato successo incredibile. Come Line Ice. Esatto, però dobbiamo sottolineare che all'inizio facevano cose leggermente diverse, molto più legate a certe cose, molto più liberi secondo me. Poi sono diventati straordinariamente famosi in tutto l'universo, quindi non c'è niente da dire. Sono d'accordo. Ma questa è un po' una caratteristica di tutte le formazioni, anche basta si può pensare anche alle formazioni italiane, per esempio il Siva. Sì. Hanno avuto due momenti, il momento dei 17 re che era molto particolare, sì, e poi il momento finale comunque tra virgolette di El Diablo, che sono cambiati. Sì, molto. Sì, sì, certo. Tra l'altro anche su Mezzogiorno Giù di lì hai anche avuto la collaborazione di Tony Cercola. C'era Tony Cercola, c'era Derek Wilson alla batteria, Massimo Pennisi al basso, insomma aveva una band d'eccezione, Giovanni Di Caprio, il chitarrista di Venditti. E tanti, io, a me piace comunque molto collaborare con i musicisti e infatti li scelgo a secondo del tipo di pezzo o di disco che devo realizzare. Per esempio il prossimo disco ho scelto già e saranno i musicisti di Francesco De Gregori, quindi alla chitarra ci sarà Paolo Giovenchi, al basso Guglielminetti, alla batteria Stefano Parenti, insomma a secondo quello che devo fare chiamo musicisti che suonano quel genere, questo è fondamentale. Senti, allora visto che parliamo di musicisti ricordiamo anche chi ha collaborato con te per la realizzazione di questo tuo ultimo CD. Sì, questi sono ragazzi, questi sono tutti giovani, bravissimi, alla batteria c'è un ragazzo che si chiama Mirko Augello, molto molto bravo, molto attivo anche dal punto di vista ritmico, perché è uno di quelli che si muove tantissimo ma è sempre lì, nel senso che non perde il tempo mai, è sempre a click, perfettamente a click, è un batterista dei nostri giorni. Io sono un po' legato forse ai vecchi cliché, quelli di John Bonham o quelli di Stuart Copeland, che andavano con un suono della Madonna bestiale. Anche se uscivano un po' fuori click non aveva importanza, ecco. Cioè, adesso invece c'è il cliché italiano del batterista Orologio, e poi al basso c'è Biagio Martello, che è un bassista molto in pianta, suona molto bene. Alle chitarre c'è un ragazzo che si chiama Saretto Emmolo, un allievo di un altro mio grande amico illustre chitarrista che è Massimo Varini, e così via, e poi ci sono io nelle altre, in tutte le altre cose, nelle acustiche, soprattutto al pianoforte, sull'altro su Provini. Mi auguro che ci sia un po' di ascoltatori che andranno ad acquistare questo tuo doppio CD. Provini veramente è piacevole. Sì, Provini è piacevole, i Provini sono piacevoli perché comunque è stato fatto tutto nell'arco di un'ora e mezza, perché era soltanto un pianoforte e un microfono e basta. Quindi non c'è editing, non c'è nulla su quello, ecco. Tanto più che la prossima canzone che ascolteremo, che è Sexy Road, a me piace tantissimo, suonata lì c'è molto Cohen, devo dire. Sì. Lì è molto Leonard Cohen, l'ispirazione è quella, non c'è dubbio. Senti, Ugo, prima di ascoltare Sexy Road, volevo sapere, dopo una vita, mezza vita, diciamo, dedicata un po' come arrangiatore, cos'è che ti ha così motivato a iniziare a incidere di prima persona un CD? L'ho sempre fatto, non ho mai stampato, ma l'ho sempre fatto, cioè ho sempre scritto e cantato le mie canzoni e anche le cover, perché io vengo anche da una gavetta di cover molto molto molto lunga e molto fitta, quindi mi è sempre piaciuto, ho sempre fatto il cantautore, non avevo mai stampato un disco fin quando non ho fatto il contratto con l'Interviste. Ma tu hai detto una cosa bella, Ugo, è importante fare la gavetta facendo le cover per crescere, secondo te? È fondamentale, non esiste musicista che nasce con una caratteristica o con una sua peculiarità, non esistono, non può esistere nella maniera più assoluta, e deve sempre comunque avere delle influenze, non c'è dubbio, ma a parte comunque che il panorama musicale italiano ne è pieno, per carità, cioè dagli anni 70 tutta la canzone d'autore, povero Bob Dylan, se lo sono mangiati dappertutto, sì. o Cohen o altri, un po' meno, però un po' più difficile, cosa dici? Sì, Cohen, beh, l'ha fatto De André, sì, l'ha fatto De André, quindi chiaramente da De André. Prima l'ha fatto De André, ma anche sì. Di l'ha fatto De André, anche se con la traduzione di Desolation Road, ti ricordi? Esattamente, certo, è stato uno degli autori, dei pochi autori italiani che comunque è stato tradotto, è successo con lui ed è successo con Mario Venuti, cosa che non succede quasi mai, nel senso che generalmente sono le canzoni brasiliane ad essere tradotte in italiano, invece questo qua è il contrario, una canzone italiana che viene tradotta in lingua brasiliana. Certo, certo. Mi riferisco a Fortuna, che è una canzone di qualche anno fa. Bene, cosa dici, Ugo? Sentiamo Sexy Road. Sexy allora. Road. Ok. La testa sul cuscino, una luce nella stanza accenderò. Nelle ore del mattino accarezzerò il tuo viso e partirò. Sulla strada che restringe c'è una donna che ricorda l'amore. Vedo l'ombra che si infrange sull'asfalto incandescente e umido. Sexy Road, dove ho incontrato te, il suo indirizzo è appeso in ogni insegna di motel. Via della libertà, su terra arida, ti accorgi che anche questo è America. C'è da Kentucky all'Alabama, fino a sud della Louisiana scenderò. C'è una voce che mi chiama e alla prossima stazione aspetterò. Che treno di caligine e benzina taglierò, l'orizzonte si avvicina e il deserto si allontana ancora un po'. Sexy Road, dove ho lasciato te, e le ragazze sembrano modelle di Chanel, dove la libertà sta dentro l'anima, ma tutto questo in fondo è America. Viaggio per l'America. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Rieccoci qui. Allora, Ugo, parliamo un attimo di Interbeat. Sì. Beh, Interbeatle è una delle etichette più antiche, indipendenti, chiaramente, una delle etichette più antiche d'Italia, è un'etichetta che ha avuto nomi illustri anche americani, non soltanto italiani. E poi ha avuto Stefano Rosso. Ecco, esattamente. No, c'è un buon motivo per cui ti chiedo questa cosa, perché so che tu hai anche qualche legame particolare con Stefano Rosso. Tu hai fatto o stai preparando qualcosa? No, io ho rifatto un brano, forse uno dei più famosi, che ovviamente non ho fatto nessuna ricerca nella produzione di Stefano. Però ho preso un brano molto famoso e l'ho riarrangiato totalmente, cambiando un po' il vestito al vecchio brano, che comunque forse è la carta d'identità di Stefano, che si discuteva dei problemi dello Stato, si andò a finire sulla shish legalizzato. Esatto. Insomma, ecco. E allora senti cosa fa. Senti, a proposito di questo, io ho invitato un non so se definirlo cantante o regista, o addirittura tutte e due, che ha fatto un docufilm veramente bello, da quello che mi hanno detto. Io devo ancora vederlo, però sì, l'avremo ospite qui tra poco a Blu Radio Veneto, tra pochi giorni, sì, ed è Simone Avincola. Ciao Simone. Simone è un cantautore anche. Sì, ciao a tutte e due. Ciao. Ciao a tutti e tre, c'è anche Maurizio. Ciao Simone, ciao. Okay, ciao a tutti e tre. Ecco Simone, allora anche te, quindi un legame magari il tuo ancora più forte con Stefano. Sì, io ho sempre ritenuto ingiusto il fatto che sia stato appunto ingiustamente dimenticato un po' in vita, ma anche dopo la sua scomparsa, insomma, per cui questo è stato il motivo che poi mi ha spinto a realizzare questo documentario che ho fatto. È totalmente autoprodotto e l'ho fatto veramente col cuore, e per adesso insomma piace molto, per cui sono veramente molto contento, si è sparsa molto la voce e quindi sono contento per Stefano prima di tutto, diciamo. Ecco, e diciamo anche che ti avremo ospite, se non sbaglio, il 24. Il 24. E ti ringrazio di questo perché insomma anche grazie a te, grazie alla tua radio, insomma, grazie, diciamo anche che... grazie anche Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che si è occupato, certo, si è interessato della cosa, ecco. certo insomma, ecco. No, perché insomma poi sono dei contributi importanti, insomma non è facile trovare radio e persone insomma interessate a un progetto, diciamo, anche così un po' di nicchia, diciamo. Certo, ma noi siamo qui proprio per far questo, per dedicare il nostro tempo alla musica, soprattutto emergente. Certo. Ecco, Ugo, certo, chissà mai che magari questa sia un'occasione, visto che abitate tutte e due a Roma. Sì, no, ma noi con Simone non ci conosciamo, se non via Facebook. Comunque sì, ci siamo incrociati un paio di volte, abbiamo un amico in comune che è Enzo Miceli, con cui è vero, sì. Io sto lavorando ultimamente. sì, no, ma comunque sì, a parte Simone, te lo dico così apertamente, io ti voglio ospite in Sicilia quest'estate con il tuo progetto, ho ascoltato le cose tue, sono molto belle. Io ti ringrazio. Alcune cose ti voglio ospite in Sicilia, quindi magari ci terremo in contatto via Facebook. Va bene. Io ti ringrazio, ormai l'hai detto, ormai l'hai detto. Ormai è fatto, tutto il Veneto ci ascolta, e stimi tutto il mondo, quindi non solo tutto il Veneto. Infatti, e allora chissà mai, progetto su progetto, magari vi avremo tutti e due qua in studio a fare qualcosa di particolare dedicato a voi, e magari una piccola parentesi dedicata anche a Stefano Rosso. Magari, sarebbe un piacere, veramente. Allora Simone, noi ti ringraziamo, so che tu devi scappare via, ma hai raccomandato alle 21.30 che avevi un impegno improrogabile, quindi ci risentiamo il 24, Blu Radio Veneto ti ringrazia di questo piccolo intervento e salutaci Roma. Va bene, no, grazie veramente a voi, a risentirci, e un abbraccio a tutta la redazione, a Ugo pure. Ciao nuovo Simone, amico. A presto allora. Ciao Simone. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Ugo, ritornando a Sexy Road, sì, c'è la cadenza queniana, ma ci sei te al 100%, la cadenza e basta, cioè quel modo, sì, quell'omaggio a Cohen, ma basta. No. Vai, Ugo. Sono pienamente d'accordo, nel senso che comunque i miei ascolti sono mirati, non c'è dubbio, si sente. Sei un po' da loner, la fai da loner, da hobo, possiamo dire questo. Sì, è un po' un volere vedere un po' oltre, cioè dire, nel senso che la canzone d'autore, quella classica, ti prende, ti forma, ti plasma, però poi devi anche dare qualcosa in più. Comunque, è una cosa, non è difficile, è una caratteristica umana. Ogni uomo è diverso dall'altro, quindi c'ha un proprio modus vivendi. Certo. L'essere stato per tanti anni arrangiatore t'ha contribuito, t'ha più facilitato il discorso di essere cantautore effettivo in questo disco. Sei stato anche prima, ma effettivamente la tua strada si sta delineando adesso. Chiaramente, al di là di questo progetto ecologico, la tua strada si sta delineando. Il prossimo disco sarà tuo, effettivamente tuo, al di là del progetto di questo. Certamente, questo è un progetto che nasce su commissione. Esatto. Nel frattempo mi ha appassionato, e anche questo è importante, perché poi la passione, come l'appetito che viene mangiando, la passione viene suonando, ecco. Esatto, bello questo, la passione viene suonando. Chiarissimo, questo è chiarissimo. Dobbiamo dirlo forte, perché certa gente deve saperlo, personale ci vuole passione, c'è poco da fare. Per suonare ci vuole passione e comunque viene quasi sempre spinta da qualcosa. Sai, io non sono un ecologista convinto, ecco, questo devo dire, attenzione, molte volte fare un disco sull'ambiente è o speculare nell'ambiente oppure cercare di in qualche modo di avvicinarsi fino a diventare forse quasi anche integralisti, perché ne ho conosciuti molti. Io sono uno di quelli che vive e lascia vivere, però per vivere bisogna stare attenti come si vive, nel senso che bisogna un minimo di attenzione e un minimo di rispetto nei confronti dell'ambiente ci fa vivere sicuramente meglio. Senti, noi ti abbiamo appiccicato, almeno io e Maurizio, il bollino di cantautore doc. Però una cosa volevo chiederti, il paziente cantautore gode ancora di ottima salute o secondo te è ancora convalescente? No, secondo me è ancora convalescente, però forse una cura definitiva esiste negli ultimi tempi, perché comunque vedo un risveglio della canzone d'autore, anche se adesso viene forse un po' troppo snaturata, attenzione. La canzone d'autore moderna, come viene detta, contemporanea, non deve avere più il cliché di una volta, non è vero, il cantautore scrive, e il cantautore è una parola unica, io scrivo le mie canzoni e me le canto. Ecco. Cioè, non deve essere comunque etichettato come un Guccini, De Gregori, Claudio Lolli, grande amico mio fra l'altro. Anche nostro, abbiamo intervistato più di una volta Claudio Lolli. Quindi io infatti molte volte glielo dico, insomma, ormai Claudio è diventato non soltanto il cantautore ma anche il lettore poeta. Esatto, hai detto una cosa giusta, perché nello spettacolo che ho visto qualche tempo fa lui declamava le cose più che cantarle, no? Capodacqua con la sua chitarra. Esattamente, le declamava, è una cosa molto interessante. Uno della mia generazione che lo ricorda, ho visto anche di Zingari Felici o qualcosa d'altro, qualcosa di prima, ha un certo fascino, bisogna dirlo, Ugo. Sì, è uno spettacolo un po' particolare. Io l'ho avuto ospite in Sicilia ed è uno spettacolo un po' particolare per palati fini, per amatori. Anche perché la gente che lo ricorda, che ricorda Claudio, ricorda gli Zingari Felici, e fin quando non cantava gli Zingari Felici lo uccidevano. Cioè, se non si è parlato. Quindi, insomma. Chiaramente bisogna anche adattarsi al pubblico, perché noi senza il pubblico non saremmo cantautori, se non ci fosse il pubblico. Ecco. Se qualcuno ci deve ascoltare c'è anche, ci deve essere pure. Però l'idea del cantautore moderno mi affascina molto, perché cambiano i tempi, però chi scrive le canzoni se le canta ancora. E adesso ci sono più cantautori che interpreti. C'è stato un periodo che era il contrario, c'erano più interpreti che altro, ma perché c'erano le case discografiche che avevano comunque nelle mani un po' tutto, per cui avevano gli arrangiatori, avevano gli autori, avevano i musicisti, avevano tutto, e quindi il cantautore veniva un attimino messo di lato. Adesso invece no, adesso che budget ce ne sono sempre meno, quindi evidentemente è meglio se un cantautore se le canta, se le suona, se le arrangia e se le registra pure. Come fai te praticamente. Esatto, e io, esatto. Quindi sei nato nel periodo giusto allora, Ugo? Sono nato nel periodo giusto, ho fatto gavetta nel periodo sbagliato. Ecco. Senti, allora direi che possiamo ascoltarci la traccia numero 5, O Susanna. Cosa diciamo di questa canzone? O Susanna ha un certo imprimatur, cioè, nel senso che è assolutamente subito americana. Questo c'è poco da fare. Sì, no, ti dico subito come è nata O Susanna. Dimmi. In due parole. Mi rifaccio a un altro amico comune mio e di Simone Avincola, è Luigi Grechi. Lo conosciamo, Luigi, è il fratello di De Gregori praticamente. Perfettamente. Luigi Grechi nel mio studio un giorno insieme al grande Peter Rowan mi fa ascoltare un brano che aveva lo stesso andamento. Che non era Il bandito al campione, ma siamo lì. L'ha scritto, dobbiamo sottolineare che l'ha scritto Luigi Grechi. Il bandito al campione. Infatti, sì. Molti non lo sanno, ma è del fratello di De Gregori, non è di De Gregori. Infatti. Per cui mi ha fatto ascoltare un pezzo che aveva lo stesso andamento. Da qualche mese dopo che è uscito il disco ho fatto ascoltare O Susanna a Luigi e ho detto ma è bello, però hai fatto bene, hai fatto un bel lavoro. Quindi è stato l'input, me l'ha dato Luigi per quel brano. Bene, questa è una cosa che non sapevamo. Ed è... c'è un urlo country alla fine che è tipico suo. Lui ama molto queste sonorità. Esatto. Decisamente. Allora ascoltiamoci tutta la sonorità di questo brano. O Susanna, Ugo Mazzei. O Susanna, questa notte so che piangerai per me, per un viaggio, per un sogno da idiota. Ho venduto il tuo sorriso proprio qui nel Minnesota, allo zingaro che mi parlò di te. O Susanna, la mia vita è arrivata fino a Dio, ho toccato la sua barba con la mano. Vivo qui ma il mio indirizzo l'ho spostato più lontano, a sud-ovest di questa vita città. E proverò un'altra strada, proverò a passare il fiume e suonerò la ghironda fra le nevi delle alture e varcherò le montagne con cavalli di fortuna e arriverò sulla spiaggia dove un dì parlai alla luna. La regina che accompagna da 6 giorni il mio cammino, a 100 anni ne dimostra molti meno. Ha provato a dire basta con la vita o col destino, ma le gambe aperte da un'eternità. Notte di Natale esce un sogno dal camino che mi svela la sua femminilità e brinderò alle sue voglie, brinderò alla sua salute e danzerò per la stanza finché mi passi la sete e suonerò la ghironda con il buio, con la luce mi sazierò di castagne e di buon vino e dinamite. Però l'ultima avventura ve la voglio raccontare in un luogo dove non saprei tornare. Ebbi un sonno da morire, lei non era lì con me. Mi svegliai in un altro stato dentro un ranch. È il sentiero delle stelle nelle notti americane. È un'immagine che non si può scordare. Oh Susanna, il tuo ricordo è sempre vivo dentro me. Con il sole o con la pioggia cerco te. Camminerò un'altra strada e proverò a passare il fiume. E suonerò le campane arrampicato fra le dune. E passerò le montagne con stivali di fortuna. Arriverò a quella spiaggia dove un dì morì la luna. E passerò le montagne con cavalli di fortuna. Arriverò a quella spiaggia dove un dì parlai alla luna. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Caro Ugo, noi abbiamo dato volume alle casse qui in radio. Ugo, citiamo quei musicisti che hanno particolarmente suonato in questo pezzo, che sono molto molto interessanti, secondo me. Beh sì, allora Mirko Augello alla batteria, Biagio Martello al basso, Saretto Emmolo alle chitarre e io alle acustiche, alla fisarmonica. La fisarmonica, dobbiamo sottolineare. Perché cari ascoltatori, lo Susanna che voi immaginate non è lo Susanna di Ugo Mazzei, assolutamente. Susanna è un traditional americano cantato da un sacco di gente. Ugo Mazzei l'ha fatto sua. L'hai fatto tu praticamente sto No, Susanna. Ho messo un punto esclamativo. Esatto, hai messo un punto esclamativo. Bellissima questa. Per differenziare, per allontanare certe sonorità, esatto. Perché è giusto che sia così. Esatto. Assolutamente. Diciamo anche una cosa importante, Ugo. Tu non è che hai smesso di fare il produttore. Tu hai uno studio di registrazione molto importante e ti stai occupando anche di nuovi artisti. Sì. No, due studi, uno a Roma e uno in Sicilia. Mi sto occupando sì di nuovi artisti, c'ho una band che sto producendo, una band che si chiamano Beetlejuice, e sono una band fra il rock and roll e lo ska, molto particolari, sono molto interessanti, delle sonorità tipicamente rock and roll, però con un ritmo di ska abbastanza accentuato. Non sono molto bravi, usciranno molto presto con l'intervista. Allora noi, tu quando sarà il momento me lo segnali, che vediamo di organizzare anche un live, perché se vogliono venire a fare un live qui in radio non ci sono problemi. Se poi non, per vari motivi non possono essere presenti, noi siamo qua sempre disponibili con la telefonica, senz'altro. Ma anche tu sei rock and roll, Ugo, c'è poco da fare. Sei rock and roll in chiave west coastiana, ma sei rock and roll, sì, c'è poco. Sì, senza dubbio, senza alcun dubbio. Io sono uno di quegli estimatori all'osso di uno degli artisti che hanno fatto fatto il rock and roll nel vero senso della parola, come Buddy Holly, per esempio. Esattamente, come Skyliner, come tanti altri. Sì, lo amo molto il rock and roll. Addirittura negli anni passati ho prodotto un disco molto particolare, perché era assolutamente drumless, quindi c'era soltanto un contrabbasso slap e delle chitarre di un contrabbassista che era co-leader di una band degli anni passati di rock and roll italiana che si chiamavano Bopping Kids. Adesso il cantante di quella band è un produttore discografico della Universal, si chiama Orazio Grillo, allora si chiamava Brando, Ah, Brando, me lo ricordo, Brando. Assolutamente, me lo ricordo. Lui era il cantante di Boppin' Kids. Il contrabbassista si chiama Blasco ed è uno dei pochi in Italia, forse in Europa, a suonare il contrabbasso slap in maniera divina. Ah. E realizzammo insieme, anni fa, questo disco senza batteria, con i successi ovviamente, tutte cover chiaramente, quindi Surfing Safari, Zoot Suit degli Who, tutti i brani in chiave rock and roll, perché lui amava molto la vecchia storia dei Mods contro i Rockets, insomma un film famoso che fu Quadrofinia, film con la colonna sonora degli Who. Esatto, che adesso l'hanno ristampato, lo sai, no? Che hanno ristampato, lo so. Appunto, lo sapevo assolutamente che eri informato su questo. Guarda, Ugo, il tempo qua sta volando via, noi volevamo fare ascoltare anche Armageddon, ma purtroppo... non c'è il tempo, abbiamo un'altra band pronta, infatti ogni tanto avrete sentito dei suoni perché si stanno preparando per il live. Però ugualmente è stata una buonissima chiacchierata, avremo tante altre cose da chiederti, chissà mai, che propongo sempre un po' a tutti coloro che passano di qui a fare la telefonica, di poterti avere anche magari per il prossimo lavoro, magari qui in studio. Volentieri, io vengo spesso in Veneto e sono sempre felice, perché la amo molto, è una delle mie regioni preferite, sul serio, non perché siete veneti, ma perché è così. È bene. Senti, la chiusura, noi chiudiamo con un brano che dà anche il titolo a questo tuo CD, Addio Shangri-La. Esatto. Dobbiamo essere tristi, è un addio a un posto pacifico, un posto bello. Sì, beh, è un addio a un posto che non esiste, quindi alla fine non diciamo addio a nessuno, quindi è un arrivederci. Ecco, diciamo anche cos'è, due parole, cos'è Shangri-La? Per Shangri-La chi magari... è un luogo ideale, è un cosiddetto monastero di Shangri-La in Tibet, un luogo di pace, di serenità, un luogo che non esiste, forse ci vorrebbe un luogo così. Ci vorrebbe per un breve periodo, perché poi è troppa pace e serenità a due palle, un minimo di rock and roll ci vuole anche. Sempre il rock and roll, ci vuole sempre il rock and roll, Ugo. C'è poco da fare. Un po' di smog di Memphis o di altre città americane ci vuole anche, però insomma un po' tutto nella percentuale giusta, ecco. Esatto. Senti Ugo, prima di chiudere hai fatto una bella dedica sul tuo CD a tuo padre. Sì. Quella è veramente una bella cosa, ti seguiva molto? Sì, no, ma mi segue ancora, mio padre c'è ancora, però è malato, però ho voluto dedicare questo disco a lui proprio perché c'è, magari se non ci fosse stato più probabilmente non l'avrei dedicato a lui. Certo. L'ho dedicato a lui perché si è ammalato e lo sento ancora più presente, ecco, in un disco mio, in una mia opera. Bene. Ugo, se allora i tuoi riferimenti web? I miei riferimenti web sono senz'altro Facebook, perché è chiaro, insomma, è quello che risolve. Poi c'è il sito dell'Interbeat, che è interbeat.it, poi c'è il sito di Protosound, ovviamente, che è il mio ufficio stampa. Ringrazio anche i ragazzi Paolo e Paolo Tocco, chiaramente, ecco. Sì, non c'è dubbio. Ringrazio e Giulio. E Giulio, bravissimo. E poi c'è il sito dell'Egea, che è la mia casa di distribuzione, ma comunque sia, tutto converge attorno a Facebook, non c'è dubbio. Bene. E qualche data, scusa? Sì, inizio con la primavera. Inizio con la primavera, dalla Sicilia salgo fino a arrivare dalle vostre parti, all'inizio dell'estate. E quindi chissà mai che sia un'occasione che ci mettiamo d'accordo mai, per un live. Come? Chissà mai che sia che ci sia possibilità di fare un live qui. Certamente, volentieri, sarei felice. E allora, ci salutiamo Maurizio, sì. Salutiamo Ugo. Ugo, esattamente, chiaramente con la promessa assolutamente 21:50 detta da Ugo di venire qua a suonare. Senz'altro. Allora, ci lasciamo con questa bellissima canzone, Addio Shangri-La. E Blu Radio Veneto ti ringrazia della tua presenza, grazie a te Maurizio, grazie Ugo e soprattutto un grazie per la tua disponibilità e un saluto grandissimo, visto che ci sono anche venuto a fare un giro da turista, alla tua bella Siracusa. Grazie ciao Ugo ciao, grazie, ciao. Adieu, addio per sempre fortuna. Se la mia mano si è fermata o se i tuoi occhi sono fissi sulla luna. Adieu alle mie verdi montagne, a questa terra incatenata nei ricordi o nelle trappole dei sogni. E mi rifugio nel mare per soffocare il dolore. Forse una nuova stagione potrebbe farsi sentire. E allora sì che tornerà, per il momento addio mia bella Shangri-La. Già suonare e il vento urlare in cortile, ma un altro regno sorgerà dalle rovine di una vecchia Shangri-La.